Allora, sono le 10:47 minuti primi qui da Radio Onda Rossa e la sigla ci ricorda che questo è lo spazio di Parole Contro. Bene, quest'oggi parleremo proprio due parole che qualcuno pensava che cozzassero, che facessero litte, litigassero tra di loro. Invece vediamo che sono due facce della stessa medaglia. Le parole sono, diciamo così, liberismo e interventismo. Ci riferiamo a due concezioni, così diciamo, economiche, però noi le vorremmo chiamare, diciamo, di ideologia capitalistica sul terreno dell'economia, anche se appunto sono due modi di concepire la gestione economica dell'assetto capitalistico. E in realtà il titolo però che vorremmo dare è più simpatico questo: gratta gratta un liberista viene un interventista o un protezionista, chiamatelo come volete. Colui che grattando da liberista si scopre protezionista o interventista è Giulio Tremonti, ma perché è l'economista di questo compagine governativa, da sempre il consigliere economico di Forza Italia, di Berlusconi, ministro dell'economia di tutti i governi Berlusconi, ed è il maître à penser del liberismo italiano. Fino a ieri però, perché qualche tempo fa è uscito un suo libro, si chiama La paura e la speranza, di Giulio Tremonti. Noi non l'abbiamo letto e ci guarderemo bene da leggerlo, però ne hanno parlato diversi giornali con interviste, dibattiti, se ne sono fatti anche dibattiti in televisione, in cui Giulio Tremonti, praticamente illuminato sulla strada di Damasco, scopre che in questi giorni, che in realtà il liberismo o la globalizzazione, la chiamano così, sono due termini che individuano lo stesso processo, perlomeno in questa fase storica. Il liberismo, partito da Reagan e poi dalla Thatcher in questo mondo occidentale, poi via via diffusosi in tutto il mondo capitalistico, poi venne chiamato a un certo punto globalizzazione. Però mentre il primo termine, liberismo, è un termine che danno a se stessi questi pensatori economici di ambito capitalista, che sono appunto per il libero mercato, da qui la parola liberismo, la parola globalizzazione è un termine giornalistico che non rappresenta una categoria ma semplicemente un dato statistico, se vogliamo, ossia poiché il liberismo dà spazio al libero mercato e quindi cominciano a circolare velocemente capitali e merci, un po' meno gli esseri umani, ossia una merce particolare che si chiama forza lavoro, anche quella circola, ma solo secondo gli intendimenti di coloro che la sfruttano. Bene, poiché appunto liberismo significa libera circolazione di capitali e merci, e questa libera circolazione avviene sull'intero pianeta, perché uno se ne conosce oggi di pianeta abitato ed è la Terra, se domani se ne troverà un altro verrà anch'esso invaso dall'assetto capitalistico, se saremmo ancora in questa fase. E quindi globalizzazione, che è un termine statistico che viene tratto dalla, diciamo, dalla percentuale che capitali e merci, la ricchezza, il valore di capitali e merci che circolano sull'intero pianeta, cioè che non rimangono all'interno di uno Stato-nazione, rappresentano rispetto alla ricchezza nazionale. È un dato statistico, l'indice di globalizzazione può essere il 20, il 30, il 40, il 50%, stante il fatto che la quantità di merci e capitali che circolano, cioè che si spostano di paese in paese, rispetto alla ricchezza complessiva. E tra l'altro questa globalizzazione non è ed ogni questa è un calcolo che viene fatto in ogni periodo storico a seconda delle fasi. Le fasi di espansione della produzione capitalistica, cioè quindi del movimento dei capitali e merci, avviene periodicamente. Ma per esempio anche qui poi i dati statistici sono sempre grossolani, perché però per esempio il 1911-13, quindi quasi un secolo fa, questo indice pare che sia stato addirittura più alto di quello verificatosi negli anni a cavallo del passaggio di secolo recente, quello tra 900 e 2000. perché allora appunto c'era una grossa fase di espansione capitalistica, quella degli inizi del secolo scorso, che infatti la reazione a quella portò la radicalizzazione dei nazionalismi, che poi produsse appunto la prima guerra mondiale, guerra dei nazionalismi appunto. In questo caso c'è invece un'inversione di tendenza, anche adesso si sta esaurendo la fase liberista, oppure della globalizzazione, che pure ha avuto uno spazio enorme in questo quindicennio, e però sta regredendo, tant'è vero che leggiamo tutti i giorni sui giornali che capi di governo oppure economisti dicono che sarebbe il caso di cominciare a mettere di nuovo dei dazi protezionisti ad alcune merci, sostanzialmente per esempio l'agricoltura europea, sapete, è molto protetta, perché se fosse liberalizzata i prodotti agricoli provenienti in particolare dall'Africa invaderebbero il territorio europeo, quindi si mettono dei sistemi protezionisti spesso che non sono i vecchi dazi dell'Ottocento, del Novecento, ma vengono fatti in maniera un po' più sofisticata, per esempio con le norme cosiddette igieniche, cioè si dicono dei prodotti possono venire sul territorio europeo, sui mercati europei, e essere venduti ai cittadini europei se hanno questi requisiti che vengono fatti ad capocchia, ma non solo dal punto di vista sanitario. Per esempio si dice che non devono essere usati dei pesticidi o dei fertilizzanti, oppure debbono avere delle norme di confezionamento di un certo tipo, o proprio per escludere quelli africani, e questa è una protesta che da tempo va avanti nel mondo africano, che però non sente ascolto, ovviamente se ne fregano, perché i governi europei hanno bisogno dell'appoggio degli agricoltori europei, e quindi chiaramente stanno da parte. Primo caso fra tutti è la Francia, che pure si dice è stata all'avanguardia del processo di cosiddetto di globalizzazione, però sul piano dell'agricoltura era quanto mai protezionista. Bene, per tornare quindi al nostro Giulio Tremonti, e questo libro che ha fatto, La paura e la speranza, è proprio, inizia così, proprio dice così: è finita in Europa l'età dell'oro, è finita la fiaba del progresso continuo e gratuito, pensate un po', la fiaba della globalizzazione, la cornucopia del XXI secolo, una fiaba che pure c'era stata così ben raccontata, chi ce l'aveva? Lui ce l'aveva raccontata a noi. Comunque il tempo che sta arrivando è un tempo di ferro, finita l'epoca dell'oro c'è l'epoca del ferro, dice, i prezzi delle merci, del petrolio, del denaro, degli alimentari, invece di scendere salgono. Questi prezzi non è che per natura divina salgono, per esempio il prezzo del denaro lo decide un certo Trichet, il prezzo del denaro in Europa, no? Che infatti l'ha aumentato di un quarto di punto qualche giorno fa. E poi dice, continua, low cost può essere ancora un viaggio di piacere, ma non la spesa di tutti i giorni. Un viaggio a Londra può ancora costare meno di 20 euro, ma una spesa media al supermercato può costare ben più di 40 euro. Insomma, dice quello, e dice, chi ce l'ha raccontata? Lui, a noi ce l'ha raccontata lui, nei precedenti governi Berlusconi, come altri liberisti, molti, anche a sinistra, c'erano state grandi conversioni negli ultimi decenni sul terreno liberista. Bene, ci raccontavano che dando libero sfogo al mercato, in realtà tutti saremmo stati nel migliore dei mondi possibili. Un meraviglioso reddito, anche con la precarizzazione, ossia che chiamavano mobilità, bisogna fare 3 mesi un lavoro, 3 mesi un altro, poi non si capisce come uno, finito un lavoro, cacciato via, quindi licenziato dal lavoro, immediatamente dopo ne avrebbe trovato un altro, non si capisce in base a quale virtù, però dicevano è possibile, sarà pure più bello, ci divertiremo tutti quanti, gireremo, quindi chiudiamo le fabbriche qui, apriamole in Romania oppure addirittura in Thailandia o in Cina eccetera, licenziando quindi gli operai, ma voi troverete altro da fare. Tutte queste chiacchiere ce l'hanno raccontate loro, non ce le siamo certo raccontate da noi. Forse in qualche caso noi, intendendo per noi tutti i lavoratori e le lavoratrici salariate che non sono state tanto in grado di esprimere opposizione a questa favola, mettiamola così, e l'errore nostro è che ci abbiamo creduto, nostro inteso in tutta la grande quantità di lavoratori e lavoratrici salariati, non tutti, alcuni hanno appunto opposto una forte resistenza, il movimento, i sindacati di base, tante resistenze sono state a questa globalizzazione o liberalizzazione del libero mercato, l'ideologia del libero mercato era stata talmente forte, se andate indietro col pensiero e non lo fate, il pensiero, il ricordo, la memoria, non la fate diciamo, appassire dall'ideologia. Ricordate sicuramente tutti e tutte quanto ci hanno indorato la pillola, ci hanno detto che il libero mercato era la religione del XX secolo, del XXI soprattutto, che avrebbe rappresentato un benessere per tutti e tutte. Poi la cosa non è andata così e adesso ovunque si lamentano. Per esempio, l'ultima riunione del G8, che poi è stato un recipiente vuoto e nullo, vanno lì soltanto per fare palcoscenico, passarella, i grandi della terra, i principali grandi della terra. Bene, tuttavia ha detto bisogna rallentare il prezzo del petrolio. Come? Blocchiamo gli speculatori, l'hanno detto nelle interviste televisive. Poi gli speculatori sono i loro amici e quindi non possono bloccare i loro amici, perché con quella speculazione si mandano avanti le corporation, ossia le multinazionali, che poi ungono i comitati d'affari di queste multinazionali, che sono i governi di tutti i colori di tutto questo mondo, e quindi non si possono tagliare l'erba sotto i piedi. Allora hanno detto chiediamo ai paesi produttori di aumentare la produzione, sapendo che anche questo è impossibile. Insomma, hanno detto un po' di baggianate. Allora hanno detto facciamo le centrali nucleari, come se pure quello costassero due soldi. Insomma, hanno detto un po' di baggianate inutili, tanto per dire. Però questo serviva a dire a tutti, forse dobbiamo fare un passo indietro rispetto all'eccessiva liberalizzazione. Ora, il punto centrale che noi vogliamo affrontare con voi, questi passaggi, considerate che Tremonti è già il quarto passaggio che fa. Lui l'abbiamo conosciuto da giovane, era un interventista. Interventista significa non militarmente, no? Quello può darsi pure, ma non di questo parliamo. Intervento statale nell'economia, questo si dice, cioè protezionista, controllo dello Stato nell'economia, quello che si faceva un po' agli inizi degli anni 60, per esempio in Italia, quando si faceva la programmazione economica, i primi governi di centrosinistra molto interventisti, perché c'era un'area della DC molto statalista e interventista e anche protezionista. Cioè, nell'immediato dopoguerra il protezionismo in Europa è stato molto forte. Poi c'è stato, poi quindi lui e tanti altri poi hanno scelto la linea della liberalizzazione, poi sono della privatizzazione, poi sono tornati sul terreno protezionista. Ultimamente negli anni 90-2000 sono stati i più accesi liberisti, adesso tornano al protezionismo, all'intervento statale nell'economia. Quindi è il quarto passaggio, ma non è un problema. Che ci rimanda questo, che ci racconta questo fatto? Dunque ci racconta che protezionismo o liberismo non sono altro che due facce della stessa medaglia. La medaglia è quella amara, per noi amarissima, per altri invece piacevolissima, è la medaglia del profitto capitalistico. Ora, il sistema capitalistico per sua natura, qualcuno ce lo diceva una volta, lo insegnavano anche nelle scuole, è un sistema cosiddetto contraddittorio, cioè non ha una linearità di andamento, ha bisogno di fasi espansive, perché tende all'espansione, poi però queste fasi espansive si trovano, si bloccano per alcune bolle, per questo contraddittorio rapporto anche qui tra le due anime, i due gemelli del sistema capitalistico, del mondo capitalistico, ossia la finanza, il denaro, le banche, coloro che danno i soldi, che li rastrellano con vari sistemi, mafie, traffici eccetera, e poi li prestano agli imprenditori, e gli imprenditori stessi, cioè sono coloro che producono, cioè mettono le fabbriche, mettono insieme capannoni, macchinari, operai, sfruttando questi ultimi producono delle merci che poi vendono e tirano fuori i profitti. Ma i soldi per comprare i capannoni, i terreni, per pagare gli operai, non è che li cacciano di tasca propria, li chiedono alle banche, al sistema finanziario bancario, che li presta i soldi, li presta un tasso, cioè un costo, quindi 4%, 5%, un interesse che tutti sappiamo che una volta veniva chiamato strozzinaggio, usura, poi adesso questo termine non si usa più. Bene, questi due elementi del sistema capitalistico, sistema finanziario, bancario, bancario finanziario e sistema, che non sono proprio la stessa cosa, però diciamo per ora, per semplificare, li mettiamo nello stesso, quelli che non fanno niente, che maneggiano denaro e diventano ricchi maneggiando denaro, non fanno niente, non costruiscono manco uno spillo, loro non fanno niente. Quindi qualcuno diceva sono inutili, ma non è che gli imprenditori sono utili, perché anche loro non fanno niente, loro si fanno prestare questi soldi, nemmeno li rischiano di proprio, comprano quindi capannoni, macchinari, pagano gli operai e fanno produrre alcune cose. Loro però non fanno niente, mettono semplicemente insieme questi fattori della produzione che producono le cose, loro tirano fuori i bei profitti. Questi sono gli angeli di questo paradiso chiamato sistema capitalistico. Per loro è un paradiso perché senza fare niente fanno affari d'oro, per altri l'inferno, per i lavoratori salariati, le lavoratrici salariati, poi per quelli che diventano disoccupati, per tutta l'area del sottoproletariato che una volta si chiamava esercito industriale di riserva, più o meno ha quella funzione, per l'immigrazione che è anch'essa forza lavoro spesso da utilizzare, da super sfruttare, spesso da buttare via con l'uso delle polizie. Bene, questi due movimenti, quindi liberismo e protezionismo, interventismo, non sono altro che due facce, due periodi diversi che attraversa il sistema capitalistico. Quando ha bisogno di espandersi, tutti diventano liberisti, a destra e a sinistra, descrivendoci come libero mercato, se leviamo i vincoli, le protezioni. Addirittura si parlava di abolire gli stati nazione, perché poi ci sono sempre quelli che vengono presi da un trip di droga eccessiva. Parliamo di droga ideologica, poi non sappiamo le altre se ne fanno uso o meno, ma non ci interessa, di questa ideologia ne fanno molto uso, quindi che ci raccontavano che il libero mercato appunto permetteva lo sviluppo della ricchezza per tutti, i tutti chiaramente erano gli amici loro, e quindi andava tutto bene. Qualcuno si lamentava, alcuni sindacati di base dicevano: guardate che questo liberismo sta distruggendo, chiude fabbriche, aumenta la disoccupazione, aumenta il costo della vita, peggiora le condizioni di lavoro. Sapete che recentemente l'Unione Europea ha fatto una clausola che i paesi dell'Unione Europea possono aumentare l'orario di lavoro fino a 60 o 65 ore settimanali. Siamo nel 2008 e molti di voi si ricorderanno che proprio in quel famoso 1913 si raggiunse la battaglia delle 8 ore. 6x8, 48, del non superamento delle 48 ore settimanali, con la famosa canzone, una delle tante, se 8 ore vi sembrano poche, perché i padroni dicevano: ma così poco volete lavorare, siete proprio degli sfatiati, solo 8 ore al giorno, e che diamine, lo dicevano perché in fondo lavorano loro, gli operai, le operai. E però si raggiunse questa vita, poi ci fu la parentesi della guerra, quindi si raggiunse nel 1917, questo 18 diventò la conquista delle 48 ore, diventò da allora per tutto il mondo cosiddetto civile un punto di non ritorno, ma il non ritorno non c'è in questo mondo appunto, tant'è vero che abbiamo detto un mese fa la Comunità Europea ha detto i paesi dell'Unione Europea sono autorizzati a introdurre orari di lavoro fino a 60 ore settimanali e anche per lavorazioni speciali 65 ore settimanali, quindi torniamo indietro di 100-150 anni in qualche caso. Però quello che ci interessava sottolineare è questa, diciamo, abbaglio che abbiamo preso, l'abbiamo sempre in maniera così bonaria, nel senso che la sinistra, anche gente di sinistra in buona fede, quando c'era il periodo del grande così sviluppo reale di questo liberismo, di questa globalizzazione, e c'era anche tutta una serie di personaggi che esaltavano questo meccanismo dicendo appunto è il più bello, questo è il mondo più bello mai avuto, è l'unico mondo possibile, staremo tutti meglio eccetera, esaltando i valori del liberismo e della globalizzazione, la privatizzazione, cioè, pensate, hanno vinto dei referendum qui a Roma, la privatizzazione dell'ACEA e dei non ricordo che altre due o tre vennero sottoposte al referendum che vinse la privatizzazione, quindi hanno convinto la gente, nella loro forza, avendo in mano i media, riescono a convincere la gente, colpa anche nostra, ma questa è una parentesi. Però allora in quel periodo di sfrenato liberismo o globalizzazione si riteneva che quello fosse il nemico principale, per cui venne fuori una sorta di identificazione tra liberismo, globalizzazione, cioè ciò che avveniva in quella fase, e capitalismo. Si pensava che attaccando il liberismo si attaccava il capitalismo, attaccando la globalizzazione si attaccava il capitalismo. il fatto non era vero. Poche voci hanno detto: guardate che il capitalismo vive con nazionalismo, vive con la globalizzazione e con la non globalizzazione, con la statalizzazione, vive con l'interventismo e vive con il liberismo, vive col welfare e vive senza welfare, cioè vive in tanti modi, perché anzi a seconda, se tu assecondi le sue esigenze, attraversi tutte queste fasi. Non è che lo sviluppo del welfare fu dovuto a un tentativo anticapitalista, al contrario, venne dall'interno del mondo, furono economisti di tutto rispetto, interni agli uffici studi pagati, quindi dagli stessi capitalisti, che dissero: ci sono due problemi qui, uno, bisogna rilanciare la domanda interna, quindi bisogna aumentare i salari e quindi bisogna mantenere alta la domanda interna con i salari, ma soprattutto anche con qualche soldo per chi non ha, per quelli che periodicamente diventano disoccupati, e soprattutto bisogna fare in modo che i servizi pubblici non costino alla gente, altrimenti questi finiscono i soldi per pagarsi la scuola, la salute e le altre cose, e non hanno i soldi per andare sul mercato a comprare i prodotti che noi industriali produciamo. Quindi in questo caso, per questo motivo è nata la spinta al welfare, e anche perché allora c'era un po' di incazzatura notevole e di organizzazione che la portava avanti da parte delle classi lavoratrici, che dicevano: beh, insomma, vogliamo più soldi e non pagare i servizi. E quindi, anche per andare incontro, per evitare che, insomma, questi movimenti diventassero troppo grossi, per frenarli un po', oltre il bastone c'era anche questa carota qui. Però il punto centrale era quello di rilanciare la domanda interna, cosa che sta avvenendo adesso. Avete visto i dati, la Fiat mette in cassa integrazione alcuni settori della produzione, perché è in forte calo la vendita delle automobili, così come è in forte calo la vendita dei libri. Di questi sono tutti contenti, perché la gente meno legge e più hanno modo di governare loro, ma questo è un altro rischio. Però anche per esempio i trasporti sono in calo, tutte le spese sono in calo, soprattutto quelle meno diciamo essenziali, come il pane, il mangiare, e allora bisogna rilanciare la domanda interna. Questo si può fare in due modi: aumentando i salari, però questo grava sul sistema di profitto delle aziende e quindi non va bene, oppure intervenendo con i soldi pubblici, che sono sempre i soldi dei lavoratori e delle lavoratrici, per finanziare un rilancio del welfare, cioè dei soldi per far pagare meno i servizi, in modo che quei soldi che rimangono rilanciano la domanda pubblica e quindi la spesa, il comprare i prodotti che la stessa sistema industriale produce. Ecco, questo meccanismo sta dentro, ci stanno fasi in cui ha bisogno di queste cose il sistema capitalistico, altri fasi ha bisogno invece al contrario di liberalizzare, privatizzare tutto, perché non ha bisogno della domanda interna, perché la esporta quando deve, conquista altre fasce del mondo, altre aree del mondo, esporta i prodotti in quelle aree, li vende bene, quindi non ha bisogno di questo rilancio della domanda interna. Quindi sono semplicemente fasi diverse. Non è vero che combattendo il liberismo, la globalizzazione, si combatteva il capitalismo. Era un aspetto di fase, come adesso sta tornando la fase protezionista, che vedrà una serie di cose. La crisi è forte, quindi non sappiamo che scelte faranno, però già le scelte sono forti. Appunto, il protezionismo, al di là di quello che si dice, si sta sviluppando molto forte. E pensate, questo stesso governo, con gli stessi uomini, Berlusconi, Tremonti, gli stessi, no? Maroni, di un governo di due anni e mezzo fa, che ha governato, allora diceva cose diametralmente opposte sull'economia rispetto adesso. Poi che le faccia o non le faccia, lì dipende dagli equilibri interni. Però gli economisti, tra cui Tremonti, che è il capo dei loro economisti, ha detto: bisogna cambiare completamente rotta rispetto, addirittura scavalcando il governo Prodi, che è stato di sinistra, che invece era ancora liberista, perché la stupidità di questi è che arrivano sempre un po' dopo a capire le esigenze del sistema capitalistico. Loro che vogliono essere al servizio del capitale, ossia dice: noi facciamo viaggiare meglio l'economia, questo dice la sinistra, intendendo facciamo funzionare meglio il capitalismo, però spesso arrivano dopo, non sapevano. Prodi avrebbe potuto fare già il protezionista e l'interventista, perché lo sta facendo, e lui avrebbe avuto più carte in regola, diciamo, perché appunto lui, poi, un uomo dell'interventismo dell'IRI, lui era un dirigente dell'IRI, quindi il simbolo dell'interventismo dello Stato nell'economia, lo Stato che addirittura preleva delle fabbriche in crisi e le fa diventare fabbriche statali che producono, no? Una sorta di sovietismo introdotto in Italia. Bene, eppure non ha perso questa occasione, ma questa fa parte della stupidità. E insomma, questi sono gli andamenti. Il problema è cercare di non aspettare che le necessità facciano cambiare esigenze di gestione dell'economia da parte del mondo capitalistico, dei poteri capitalistici, perché poi questi oscillano da una parte al nazionalismo, sapete, la borghesia quando trionfante, quindi gli agenti del capitalismo all'inizio dovendo spazzare via l'antico regime basato sul sistema feudale, quello degli ordini, che non consentiva una messa in circolazione di manodopera così libera, dovettero aggredire la religione, dovettero anche scompaginare le comunità territoriali, le aree agricole o pastorali, dovettero scombussolare la famiglia per avere per liberalizzare forze che potevano essere occupate in fabbrica. Quindi in qualche modo diedero una spinta innovatrice a una società che era quella europea, ferma da circa 1000 anni, imbalsamata. Quindi fu una bella spinta che liberalizzò anche poi i soggetti singoli. Era per mandarli in fabbrica, però da questo poi loro ci presero la voglia di dire: beh, a questo punto cerco di conquistarmi anche una libertà propria. Ecco, poi dopo poco ci ha fatto pace con la religione, la famiglia. Adesso abbiamo visto in questo scorcio di Novecento gli stessi capitalisti che 200 anni prima erano i mangiapreti, gli atei, gli anticonfessionali, gli antifamiliari, eccetera, cioè sono diventati più strenui difensori della famiglia, della comunità. Oggi addirittura lo stesso Tremonti, figlio di quella genia appunto di borghesi che fecero addirittura la rivoluzione francese, quindi attaccando i simboli religiosi oppure il discorso delle comunità, che era il nemico principale perché era il portato del sistema feudale basato sulle comunità organiche, parla di comunità organica, tra l'altro un termine su cui si sono fatti le ossa i fascisti del Novecento, la comunità organica da contrapporre al sistema liberale. Bene, questo per dire, insomma, questo è il quadro. Un motto per terminare questa riflessione, che però appunto va vista anche in maniera autocritica, di non scambiare l'effetto per la causa. Quando abbiamo detto tutti erano antiglobalizzazione, come se combattendo la globalizzazione avessimo combattuto anche il sistema capitalistico. Non è vero, se si combattono andava combattuta in quel periodo la globalizzazione, perché era quello l'effetto, tenendo però presente che quello era un aspetto, una zampa di questo millepiedi che è il sistema capitalistico. Tagliata quella zampa, ma noi non l'abbiamo tagliata, si è atrofizzata da sola perché ha finito il suo compito, tira fuori le altre, quindi si passerà di nuovo al sistema protezionista, ancora le frontiere, i dazi, eccetera. Il problema è che l'andamento capitalistico è questo, è oscillante, è un divagante, è contraddittorio, quindi il punto centrale è non andargli appresso e non scambiare mai una fase per l'essenza del sistema. Bene, vogliamo terminare con una con una frase interessante. Sapete, la storia statunitense è piena di queste frasi effetto che rappresentano però un concetto. Ebbene, la storia riguarda uno scontro tra un sindacalista e un produttore di auto nell'America degli anni 30, quando c'era uno scontro feroce, battaglie, i sindacati allora erano antagonisti, spesso anche pesantemente, se si facevano gli scioperi che con arresti, feriti, insomma, ogni sciopero finiva allo scontro negli anni 20 e 30. Poi ovunque in America fu molto alto il conflitto di classe, a tutti i livelli molto alto, sia come partecipazione, come effetti, come dose di violenza. Nacque la polizia privata, i paramilitari, la Pinkerton al servizio dei padroni per attaccare gli scioperi, tutto questo che credo sappiate. Bene, a un certo punto c'era una fabbrica in sciopero, quindi tanti lavoratori, c'era un grosso uso, soprattutto nella fabbrica dell'automobile, di lavoratori. E quel padrone disse: bene, li vedeva tutti con le braccia conserte, quindi rosicava da morire. Dice: ma non vi credete di fare i furbi? Io tra poco, lo sviluppo della tecnologia, cambierò questi lavoratori in macchine, in automi meccanizzati, che faranno lo stesso lavoro e loro non sciopereranno nemmeno un'ora, perché non lo potranno fare. Gli rispose il sindacalista, dice: guarda che certo, probabilmente quando metterai le macchine al posto dei lavoratori, queste non scioperanno, però nemmeno ti compreranno la tua macchina che hai prodotto quando escono dal lavoro. E lì racconta appunto che questo produttore di macchine sbiancò e capì, gliel'aveva insegnato il capitalista la regola del, gliel'aveva spiegato il sindacalista la regola del capitale. Certo, per dire, no, non andate appresso agli effetti di volta in volta. Il punto centrale è che il capitalismo può cavalcare tutti i cavalli purché siano adeguati alla sua esigenza di quel momento.